Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Nuova allerta meteo sulla costa, previsti di nuovo temporali e vento forte ieri, prima con l'acqua alta di nuovo nel centro di Trieste, gravi i danni. Il caro bollette rischia di chiudere, il convitto Tomadini di Udine, la spesa prevista per l'inverno supera il milione di euro, insostenibile per la struttura che ospita oltre 250 ragazzi. Rigassificare il metano liquido in azienda è una delle soluzioni pensate da alcune imprese della regione. Già 10 hanno fatto domanda per capire le autorizzazioni necessarie, ma non hanno ancora avuto risposte. Il comune di Monfalcone vara un piano di risparmio negli edifici pubblici e un decalogo per i dipendenti. In ogni edificio un responsabile ne controllerà il rispetto. Nuovo sciopero del trasporto pubblico su tutto il territorio nazionale. A Trieste Gorizia inizia alle ore 16, a Udine Pordenone disagi già da questa mattina. Si avvicina il processo all'autista del bus dove trovarono la morte 13 studentesse dell'Erasmus in Spagna, tra cui Elisa Valent di Venzone, la mamma. Ogni novità riapre la ferita. Oltre 70 gli appuntamenti previsti oggi a Pordenone Legge. Tra i protagonisti di ieri il demografo Roberto Volpi, la friulana Ilaria Tutti, autrice di un libro sulle prime donne chirurghe. Le 7:19, buongiorno da Alessandra Zigaina e Anna Vitagliani. Il cielo è nuvoloso sulla regione, le temperature registrate alle 6. Trieste 23 gradi, il mare mosso con una temperatura di 24,5 gradi. Gorizia e Pordenone 19,5, Udine 20,5, Tolmezzo 17, Forni di Sopra e Tarvisio 13,5, Piancavallo 12, Sappada 11, Montelussari 6,5, Montezoncolan 9,5, Lignano 23, grado 24 con una temperatura del mare di 24 gradi. Le previsioni dell'ARPA: oggi cielo in prevalenza nuvoloso con temporali e piogge in genere abbondanti, anche intense su pianura e costa, specie orientale. Sulla costa soffierà vento moderato di scirocco, dalla sera a bora. Sulle Alpi e sulle zone occidentali i temporali saranno meno frequenti rispetto alle zone orientali. C'è una nuova allerta meteo che riguarda tutta la giornata di oggi e che riguarda in particolare la fascia costiera. Ieri c'è stato un nuovo violento temporale a pochi giorni dai precedenti caduto su Trieste. Il centro storico è finito di nuovo sott'acqua e le raffiche di vento hanno strappato gli ormeggi del pontone Ursus. La cronaca. Una nuova giornata di temporali e piogge intense su pianura e costa. Sarà l'ultimo giorno di aria umida e dunque di precipitazioni. Poi da domani sulla costa arriverà la bora. In tutta la regione un clima più autunnale, secco ma più fresco. Dalla mezzanotte passata a tutta la giornata di oggi è in vigore una nuova allerta meteo. Si temono allagamenti come quelli di ieri nel centro di Trieste e di giovedì e venerdì della scorsa settimana. 23 i millimetri di pioggia caduti ieri, a cui si è aggiunto un forte vento che ha raggiunto i 124 km all'ora. La città si è ritrovata in poco tempo alle prese con scenari che ricordano Venezia con l'acqua alta, anche se l'invasione di acqua qui è stata provocata solo dalle precipitazioni e non dall'alta marea. L'acqua ha inondato il centro, da Viale Miramare a Cavana, passando per Piazza Unità e la parte est della città. Traffico subito in tilt, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere i diversi rami abbattuti dalla pioggia, anche sul Carso. Qualche problema per gli esercenti, molti si sono ritrovati con l'acqua e il fango nei negozi o appena sotto lo scalino d'ingresso. Il vento da sud ha anche rotto gli ormeggi del pontone Ursus, la gru simbolo dell'archeologia industriale triestina, che è in attesa di essere restaurata. Immediata l'operazione di recupero da parte di due rimorchiatori e di una motovedetta della Capitaneria di Porto, che in pochi minuti hanno agganciato il pontone, già assicurato ai nuovi ormeggi davanti al bacino di drenaggio della Fincantieri. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora apriamo un ampio capitolo dedicato all'emergenza energetica. Il caro bollette rischia di avere pesanti ripercussioni anche su settori importanti come il mondo della scuola. Un esempio viene da Udine, dove il convitto Tomadini, che ospita 260 studenti delle superiori dell'università, rischia di chiudere. Il convitto Tomadini di Udine è a rischio chiusura, costa troppo l'energia. Nell'incertezza più totale, la sorte dei 260 studenti universitari e delle superiori che vi alloggiano se dovesse alzare bandiera bianca. A fronte dei quasi 400.000 euro pagati l'inverno scorso tra luce e gas, la proiezione del fornitore è ora di un esborso invernale pari a 1.100.000 euro. Luca Rui, direttore della fondazione con Vitto Tomadini. Essendo noi una fondazione senza scopo di lucro, non abbiamo utili accantonati dagli anni scorsi con i quali poter far fronte alla situazione. E il bilancio, diciamo, sta in pareggio sulle bollette e sulle spese che ricevavamo gli anni scorsi. I tempi sono troppo stretti, impossibile pensare alla vendita di palestra, piscina o campi da gioco per fare cassa. Tempo che si avvia una trattativa, che si trovi un acquirente di un pezzo piuttosto che del centro sportivo, e le bollette iniziano ad arrivare e i fornitori in questo momento pretendono pagamenti puntuali e minacciando di staccare le forniture. Quindi diciamo che il rischio chiusura è abbastanza reale, ecco. La situazione è definita esplosiva. Di notte le luci esterne degli impianti sono già state spente. Invece che accendere i riscaldamenti il 22 ottobre, lo si farà il 4 novembre, ma potrebbe non bastare. Don Luciano Segatto, presidente della Fondazione. Se anche dovessero arrivare degli aiuti, bis, tris o quater, arriveranno, stante la burocrazia, quando ormai la baracca crolla. Sarebbe come se c'è una persona in piscina che sta affogando e gli si dice: sta tranquillo, domani ti mando quello che ti salva. È ovvio che noi andiamo avanti verso risparmi draconiani, però il problema è che se anche dovessimo su 100 risparmiare 30, se il 70 di spese, non solo delle bollette ma anche dei viveri eccetera, va triplicato, si chiude lo stesso. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. E sempre a proposito del caro bollette, un aiuto per molte imprese potrebbe essere quello di acquistare il gas liquido e poi rigassificarlo in proprio. Almeno una decina di imprese hanno già chiesto quali autorizzazioni servono per costruire in casa il proprio rigassificatore. In regione il paladino dei rigassificatori è l'imprenditore Alessandro Vescovini, titolare della SBE, impresa che a Monfalcone produce bulloni e quindi consuma grandi quantità di energia. La sua idea è di rigassificare direttamente in azienda il GNL, che arriva quindi liquido fin lì. Un'idea che la fame di energia ha diffuso fra molte realtà della regione, come ci conferma Michelangelo Agrusti, presidente di Assindustria Alto Adriatico. Molte nostre imprese, già una decina di nostre imprese, ci hanno chiesto di verificare quali autorizzazioni ci possano essere o ci debbano essere eventualmente per dei mini rigassificatori da mettere nell'ambito del compound di un'azienda magari abbastanza grande. Non c'è ancora stata data una risposta. Ma come arriverebbe fin qui il gas liquido? Le gasiere lo scaricherebbero su grandi navi, ormeggiate a largo a strutture fisse ancorate al fondale. Da qui, con navi più piccole, arriverebbe in porto, a Monfalcone ad esempio, e poi in treno ed autocisterna alle singole aziende. L'ingegner Giorgio Lavalle, titolare di uno studio che da 40 anni a Trieste progetta gasiere, ritiene però che un impianto di queste dimensioni dovrebbe essere anche collegato alla rete nazionale. Parliamo di navi che possono andare da 135.000 a 180.000, quella che verrà selezionata, per cui è prevedibile di utilizzare questa gas solo per rifornire navi di piccola taglia che poi andrebbero a distribuire a fabbriche o quello che è, ma la grossa percentuale verrebbe immessa sulla rete di distribuzione, sui gasdotti, per la distribuzione a terra. Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia. Corsa ai ripari contro il caro bolletta, ci sono delle amministrazioni appunto che si stanno adoperando, è il caso del comune di Monfalcone, sentiamo come. Il comune di Monfalcone si attrezza per abbattere gli sprechi. Il primo passo è stata la mappatura di 75 edifici pubblici. Sono stati individuati quelli che consumano di più ed è stata eseguita una verifica per cercare la presenza di eventuali anomalie di funzionamento degli impianti. Tra gli edifici più energivori, la casa di riposo, che ha visto la bolletta passare da 18.000 euro nel mese di giugno a 42.000 euro nel mese di luglio. È stato aggiornato il piano dell'illuminazione pubblica quantificando il fabbisogno di lampade LED. Nel 2022, da gennaio e fino alla fine di luglio, il costo della corrente ammontava a poco più di 214.000 euro. Solo per il mese di luglio, a causa dell'aumento del prezzo della corrente, la bolletta è stata di quasi 74.000 euro. Gli impianti di climatizzazione dal 26 agosto sono stati spenti d'ufficio, fatta eccezione per la casa di riposo, e per le prossime stagioni verranno definite le date di avvio e spegnimento degli impianti e le temperature massime ammesse, 27 gradi per il raffrescamento e 19 gradi per il riscaldamento. Per garantire il monitoraggio dei consumi verrà nominato un responsabile per ogni edificio pubblico che avrà il compito di registrare la lettura giornaliera del contatore e comunicarla all'ufficio gestione calore ed energia. Tutti i dipendenti saranno tenuti a seguire questi comportamenti: spegnere le luci nei locali non utilizzati, usare il climatizzatore solo con porte e finestre chiuse, spegnere i computer al termine del lavoro, spegnere tutte le luci dell'edificio al termine della giornata lavorativa, segnalare anomalie di funzionamento e guasti. Sarà anche vietato usare stufette elettriche. A controllare il rispetto di queste regole sarà un responsabile di piano individuato dal capo ufficio. Elisabetta Zaccolo, TGR Friuli Venezia Giulia. Si annuncia una giornata di disagi per il trasporto pubblico in tutto il territorio. Lo sciopero è stato proclamato da Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti, Faisa CISAL e UGL Autoferro. A Trieste Gorizia, per il personale viaggiante, lo sciopero avrà inizio alle ore 16 e terminerà nella mezzanotte. Le diverse aziende di trasporto hanno già segnalato i possibili disagi a chi è in viaggio. A Udine, la società Arriva Udine avvisa che lo sciopero durerà 24 ore, quindi tutta la giornata di oggi, ad esclusione delle fasce di garanzia, le 6, le 9 e le 12 e le 15. A Pordenone anche qui lo sciopero durerà 8 ore, i disagi inizieranno già dal mattino. Non avendo dati disponibili relativi all'adesione a scioperi di 8 ore delle medesime sigle sindacali, hanno fatto sapere le aziende di trasporto, si fa riferimento allo sciopero di 4 ore indetto il 14 gennaio di quest'anno, in cui l'adesione del personale viaggiante fu pari al 69%. Sembra si saprà oggi l'attesa data d'inizio del processo in Spagna per l'incidente in cui persero la vita 13 giovani studentesse Erasmus, tra cui l'allora 25enne Elisa Valent di Venzone. Era il 10 marzo 2016 a Freginals in Catalogna. L'imputato è l'autista del pullman per il quale il PM ha chiesto 4 anni per condotta imprudente grave, essendosi messo, pare, alla guida pur essendo stanco e assonnato. Ieri si è svolto un incontro tra la giudice responsabile del caso e le numerose parti chiamate in causa. A darne notizia è stata l'agenzia ANSA. L'avvocato della famiglia, Cesare Perosa, è in stretto contatto con i legali in Spagna. Il processo potrebbe durare diverse settimane, vista la complessità della causa e l'alto numero di parti implicate. Abbiamo raggiunto al telefono la mamma di Elisa, Anna Bedin. Sentiamola. Per me, come mamma, iniziare questo processo vuol dire chiudere un cerchio, cominciare a chiudere questo cerchio, perché fa troppo male al cuore ogni volta ricominciare, ogni volta stare a pensare, ogni volta ricorrere, ricominciare, ripensare, ripercorrere sempre queste cose. È veramente, veramente doloroso. Io dico, quando abbiamo un responsabile, quella volta il mio cuore potrà dire: mia figlia adesso riposa in pace. Signora, in tutti questi anni con i familiari delle altre vittime, degli altri ragazzi, che rapporto siete riusciti a mantenere? No, siamo riusciti a mantenere un bellissimo rapporto. Ci sentiamo spessissimo, ci vediamo ogni tanto e le dirò una cosa, che nonostante il dolore, quando ci vediamo, il pensiero delle nostre ragazze, riusciamo a sorridere ancora e cercare di andare avanti, nonostante faccia tanto male. In aumento a Udine i casi di mobbing, un numero crescente di persone sceglie di denunciare, di rivolgersi a strutture specializzate come il punto d'ascolto del comune, che ha tracciato un bilancio dell'attività nella prima parte dell'anno. Il servizio, dove sentirete l'avvocato Teresa Denetta, coordinatrice del punto di ascolto. Si intensifica l'azione del punto di ascolto antimobbing di Udine, che offre a lavoratori e lavoratrici in difficoltà un servizio di supporto legale, medico, psicologico, con un gruppo di lavoro costituito da operatrici di accoglienza, un avvocato giuslavorista, una psicologa e un medico del lavoro. Nei primi 6 mesi di quest'anno i colloqui con i professionisti del team sono stati 235, per un totale di 100 persone coinvolte. In tutto il 2021 erano state 152. Il primo dato che emerge dall'analisi è che, ancora una volta, a subire atteggiamenti vessatori sul lavoro sono in maggioranza donne, 72, contro gli uomini, 28. Abbastanza omogenea l'appartenenza ai vari settori economici, con in prevalenza industria e commercio, dove per quasi un terzo ricoprono mansioni impiegatizie. Le persone che si sono rivolte al punto d'ascolto antimobbing per la maggior parte hanno lamentato umiliazioni e critiche sul lavoro, seguite dall'attribuzione di compiti esorbitanti, eccesso di controllo e marginalizzazione. La presenza maschile sicuramente va in evidenza rispetto ai dati dell'anno scorso. Cambia la tipologia della vessazione, abbiamo mutamenti aziendali e assenza prolungata sul posto di lavoro. Degli anni precedenti solo 18 persone vengono ancora al punto di ascolto, il che vuol dire che altre persone, circa 134, hanno risolto i loro problemi. Quindi il messaggio che vi lascio è questo: chiedete aiuto, fatelo prima possibile. Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. A meno di 10 giorni dalle elezioni continuano gli appuntamenti elettorali. Oggi tour in Friuli per Matteo Renzi e il Terzo Polo. Alle 11 il leader di Italia Viva, accompagnato da Ettore Rosato, parteciperà alla conferenza Trieste sul Serio al Caffè San Marco di Trieste. Poi si sposteranno a Udine alle 15.30 nella Sala Madrassi. Insieme ai candidati del Terzo Polo terranno un incontro con gli elettori. Infine un passaggio a Pordenone Legge. Qui Matteo Renzi presenterà il suo libro Il Mostro, in dialogo con Michelangelo Agrusti. L'appuntamento alle 18.30 al Teatro Verdi. Si parla di transizione ecologica che serve all'Italia, al Friuli Venezia Giulia, a Udine, alla Casa delle Associazioni, questo pomeriggio alle 15.30. Presente il presidente di Lega Ambiente, Sandro Carnielutti. Intervengono numerosi candidati locali alle prossime elezioni. E sempre Legambiente, ancora a proposito di transizione ecologica, propone stasera all'auditorium della Casa dello Studente di Pinzano un appuntamento alle 20 per parlare di inquinamento dell'aria a seguito della proposta di ampliamento dell'inceneritore di Spilimbergo. Si tratta della richiesta rivolta alla Regione da parte della proprietà di ampliare l'attuale inceneritore di rifiuti ospedalieri speciali, materiale che, scrive Legambiente in una nota, già oggi arriva da fuori Regione, che, soddisfatta la richiesta d'ampliamento, arriverebbe da mezza Italia. Il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, parteciperà ad un incontro pubblico dal titolo Eppur si muove, energie rinnovabili per liberarci dai combustibili fossili. L'appuntamento, in questo caso, è alle 20.30 a Ronchi dei Legionari, in piazzetta Francesco Giuseppe. E ora apriamo l'ampia pagina dedicata a Pordenone Legge. Da tempo statistici e demografi ammoniscono sui rischi della denatalità. Tra i più recenti lavori sulla materia c'è quello di Roberto Volpi, demografo, che abbiamo incontrato proprio a Pordenone Legge. Il tema dell'involuzione demografica, del decadimento demografico italiano, non è facilmente affrontabile. Detto questo, è anche vero l'altra cosa, che non lo si affronta, ci si prova molto poco ad affrontarlo. Quali sono, secondo lei, le misure che si potrebbero adottare? Il grande, grandissimo problema italiano è che non ci si mette in coppia. Cioè, annualmente nascono poche coppie in Italia, sia che si consideri le coppie unite in matrimonio, sia che si considerino le coppie di fatto. Noi abbiamo poche coppie. Il nostro indice di nuzialità, cioè il numero delle coppie unite in matrimonio, è il più basso d'Europa. Se ci sono poche coppie, si fanno pochi figli. Quindi bisogna intanto avere una politica che incentiva le coppie. Ci sono due questioni per incentivare le coppie: il lavoro, la casa. Bisogna fare in modo che le aziende occupino i giovani. Pordenone, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. La storia delle prime donne chirurghe è invece l'argomento dell'ultimo libro della friulana Ilaria Tutti, presentato ieri sempre a Pordenone Legge. Sentiamo l'autrice. Nei suoi romanzi lei racconta storie di donne che sono riuscite a andare controcorrente. In che cosa le protagoniste, le donne di quest'ultimo romanzo sono diverse? Sono diverse perché partivano da posizioni agiate. Quindi sembra quasi facile, no, quello che hanno fatto, diventare le prime chirurghe della storia, operare su uomini, perché potevano farlo solo su donne e bambini. In realtà per riuscire in questa impresa hanno dovuto tagliare i ponti con le famiglie di origini, che non avrebbero mai accettato questa evoluzione, questi nuovi diritti, e queste donne che da sole andavano per il mondo a curare degli uomini. Hanno dovuto lottare, molte sono finite in carcere, molte hanno subito anche violenze, però alla fine ce l'hanno fatta. Questi diritti che erano nuovi, che oggi sono diventati dei diritti acquisiti, queste lotte che hanno portato a dei forti cambiamenti nella situazione della donna nella nostra società, che cosa manca loro per essere complete? Ciò che manca non è alle donne, ma è in certi meccanismi della società che ancora sbarrano il passo o lo rallentano, e i dati parlano chiari. I diritti è vero che li abbiamo conquistati, sembrano acquisiti, ma non dimentichiamo che si sta anche un attimo a perderli, e purtroppo quello che accade nel mondo lo dimostra ogni giorno. Pordenone, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. E sono più di 70 gli incontri di oggi a Pordenone Legge. A Sara Morozzi, La donna invisibile e le sue imprese investigative, è dedicato l'incontro con Maurizio De Giovanni. Poi la scrittrice di origini ucraine, Sasha Marianna Salzman, con il nuovo libro Nell'uomo tutto deve essere bello, altra importante anteprima, internazionale, Abbandono di Elisabeth Asbrink, ambientato tra Roma, Stoccolma e Salonicco. E ha scelto Pordenone Legge Claudio Cerasa, direttore del quotidiano Il Foglio, in dialogo con Michelangelo Agrusti per presentare in anteprima il suo Le catene della destra. Ed è dedicato ad una grande donna che ha lasciato la sua impronta nella visione architettonica del paese, il sesto libro di Anna Rita Briganti, dedicato a Gae Aulenti, riflessioni e pensieri sull'architetto geniale. Un'icona dello sport nazionale, la medaglia d'oro di Tokyo, Luigi Busà, affida a Longanesi le sue riflessioni. Il titolo del libro è La forza e il controllo, lezioni di vita sul tatami. Con Otello parte il 4 novembre la stagione lirica del Teatro Verdi di Trieste, nel segno della tradizione e anche di incentivi economici per richiamare il pubblico. Il cartellone della ripartenza è stato presentato ieri. Sei titoli d'opera e uno di balletto, pensati nello spirito di rafforzare il ruolo di Trieste come crocevia di culture, di potenziare collaborazioni oltre confine e proseguire la ricerca di nuovi talenti emergenti, anche regionali, ad alternarsi sul palco con interpreti importanti, ad aprire la nuova stagione del Verdi di Trieste, L'Otello, che ritorna dopo 12 anni d'assenza, con Daniel Oren a guidare il cast dell'inaugurazione. In cartellone anche una nuova bohème e un nuovo allestimento del barocco Orfeo ed Euridice, con la mezzosoprano triestina Daniela Barcellona, e poi ancora un'opera verdiana, il Macbeth, una delle due coproduzioni in programma oltre ai Capuleti e i Montecchi di Bellini, altro caposaldo del teatro lirico internazionale, entrambe riprese di allestimenti già collaudati. Il grande balletto ritorna invece col Romeo e Giulietta di Prokofiev, che rinsalderà la collaborazione col corpo di ballo dell'opera di Lubiana. In chiusura la Turandot, opera sempre di grande richiamo popolare. Il soprintendente del Verdi, Giuliano Polo. Abbiamo scelto di ritornare alla tradizione anche per dare un segno di ripartenza che speriamo induca il pubblico a ritornare a Trieste dopo alcuni anni veramente difficili. Un'offerta affiancata da una ricca attività didattica per le scuole e con un occhio di riguardo al pubblico, anche giovane. Il costo dell'abbonamento non aumenterà rispetto agli anni precedenti, ma ci sarà un titolo in più. Abbiamo diversificato i prezzi a seconda delle opere rappresentate e abbiamo introdotto alcune innovazioni che consentono, ad esempio, un accesso più semplice e più economico ai palchi. Inoltre abbiamo mantenuto una riduzione, una facilitazione per i giovani under 34. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Cosa realmente mangeremo nel 2050? Questo si chiede l'autore del libro Il pianeta dei frigoriferi, segnali dal futuro del cibo, Mauro Baldoni, che presenta il suo libro alla libreria Ubic di Trieste alle ore 18. Balboni ha lavorato oltre 30 anni nella ricerca e nello sviluppo della grande industria agrochimica, la maggior parte dei quali come dirigente con responsabilità europee e globali. Il libro, edito da Scienza Express, è uscito a maggio. Abbiamo raggiunto al telefono l'autore e partiamo da questo curioso titolo, Il pianeta dei frigoriferi. Andando alla ricerca dei segnali che possiamo già individuare oggi, che ci possono dire qualcosa su come mangeremo noi nei prossimi anni e soprattutto le prossime generazioni, si incontra un dato estremamente importante, e cioè che il numero dei frigoriferi posseduti dalle famiglie sul pianeta Terra sta fisicamente raddoppiando nel giro di un numero molto basso di anni. Il primo frigorifero funzionale e soprattutto di prezzo accessibile alla famiglia media venne lanciato in America nel 1927, quindi ad oggi, circa un secolo, siamo arrivati ad 1 miliardo. Il prossimo miliardo dovrebbe essere raggiunto addirittura entro la fine di questo decennio, quindi entro il 2030, il che vuol dire che c'è mezzo mondo, quello che non se lo poteva permettere finora, che se lo sta comprando adesso. Questo ovviamente sta succedendo dove? Soprattutto in Asia e poi a seguire anche l'Africa. E se pensiamo come il frigorifero ha cambiato gli stili alimentari delle nostre ultime due generazioni e quanto ha cresciuto il costo ambientale e anche il costo climatico di quello che mangiamo qui nel mondo sviluppato, immaginiamoci quanto sarà il impattante ambientale importantissimo di tutti quelli che si stanno mettendo a mangiare come noi adesso. Forse non riusciremo a produrre abbastanza cibo per tutti nello stesso modo come abbiamo prodotto finora. Però è anche vero che noi abbiamo capito di aver sbagliato ad aver bisogno di più chilocalorie al giorno di quelle che effettivamente il nostro corpo ha bisogno, e forse è un errore che non verrà fatto in futuro. Che tutto questo non verrà ripetuto nelle economie emergenti, purtroppo non siamo in grado di dirlo. I segnali direbbero esattamente il contrario, perché per esempio l'epidemia di sovrappeso e obesità, che già interessa oltre 2 miliardi di esseri umani, prevalentemente finora concentrata prima in America del Nord e poi in Europa, purtroppo si sta estendendo anche alle classi dei nuovi mangiatori, soprattutto in Asia, dove fra l'altro si assiste ad un aumento del sovrappeso e dell'obesità, soprattutto a livello infantile. Questi sono quindi i classici esempi che la transizione alimentare in corso anche in quei paesi purtroppo sembrerebbe stare prendendo la stessa strada che ha preso qui da noi, e questo deve preoccupare. Apre oggi e durerà fino a domenica Mare Nord-Est nella sua 11ª edizione. Si svolge in Piazza Unità con seminari e workshop. Tra le novità, la premiazione a Trieste del Tridente d'Oro, riconoscimento conferito nel corso degli anni a oltre 200 subacquei famosi come Jacques Cousteau, Folco Quilici, Jacques Piccard, Enzo Maiorca. È la rassegna internazionale delle attività subacquee che si svolge per la prima volta sulle sponde dell'Adriatico e avrà per relatori sia i nuovi premiati con il Tridente d'Oro dall'Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee, sia scienziati e tecnici che hanno già ricevuto l'ambito riconoscimento. Il primo Tridente d'Oro 2022 verrà consegnato al sub inglese Rick Stanton, protagonista dell'eroico salvataggio di una squadra di calcio thailandese da cui è stato tratto il film di Ron Howard 13 vite. Si apre oggi alle 12 l'Italian Bike Week 2022 con l'inaugurazione ufficiale al villaggio dell'area Luna Park di Lignano Sabbia d'Oro. Lo scorso maggio un evento analogo, la Bike Fest International, ha portato ben 100.000 presenze da tutta Italia ed Europa, con una significativa ricaduta turistica ed economica per la regione. Special guest saranno Marco Lucchinelli, amatissimo campione del mondo Suzuki, e Fausto Ricci, pilota del mondiale 500. Per gli appassionati delle due ruote ci sarà un'area interamente dedicata a vari tracciati su terra con numerose attività come test drive. Pallacanestro Trieste fa sapere che Alessandro Lever è stato sottoposto ad esami strumentali e ad una visita specialistica per valutare l'infortunio della partita amichevole con il Rogasca di venerdì 9 settembre. Il giocatore ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro e dovrà sottoporsi nei prossimi giorni a un intervento chirurgico per stabilizzare una lesione del legamento collaterale mediale. I tempi di recupero e il programma riabilitativo saranno valutati dallo staff medico e fisioterapico della società in seguito all'operazione. Alle 7.46 cominciamo la rassegna stampa, cominciamo dal Piccolo di Trieste, il titolo principale è «Il Golfo di Trieste, snodo della sicurezza militare». Dopo la guerra in Ucraina, il porto si scopre al centro della competizione geopolitica. Ne aveva parlato già mesi fa Lucio Caracciolo, il direttore di Limes, che ora ha scelto la città come sede del convegno annuale delle giornate del mare, che si terrà domenica e lunedì. Trieste, spiega Caracciolo all'interno dell'articolo, non è coinvolta solo negli aspetti della sicurezza militare, ma anche in quelli della sicurezza energetica. La fotonotizia in prima pagina è per Ursus, il pontone simbolo del Porto Vecchio. Il riferimento è al maltempo di ieri con il vento che ha rotto gli ormeggi. Il titolo infatti è «La nuova fuga di Ursus». Sotto sedi nautiche a Castelreggio, il diporto la prima ad aprire e pedalata carsica dal Tiglio Secolare di Casa a Crogole al sentiero Ressel. Sotto a Trieste, Stanton, lo speleo sub che salvò 13 ragazzi, ne abbiamo parlato poco fa, sarà in città nell'ambito della trasmissione Mare Nord-Est. Il Piccolo di Gorizia dedica invece l'apertura all'attacco hacker al comune di Gorizia. Ieri scadeva l'ultimatum e secondo il quotidiano, non avendo il comune pagato il riscatto, sul deep web sarebbero già stati pubblicati 50 gigabyte di documenti, ma la polizia postale non conferma e non smentisce. Sopra Ronchi, 45 assunzioni anticrisi e questo in un'azienda che produce schede elettroniche. Infine, l'antica quercia adottata da Carolina protegge i contadini, è un albero di 600 anni che si trova a Fossalon lungo la strada diretta a Grado. Il Messaggero Veneto apre con la crisi energetica, corsa ai pannelli solari, oltre 2200 impianti nei primi sei mesi dell'anno, le installazioni di moduli fotovoltaici sono cresciute del 68%. E poi la fotonotizia di centropagina con un pizzaiolo che con il pomodoro scrive sulla pizza chiuso per sempre. Il caso di un'azienda, la Eurols di Villa Santina, specializzata in produzione di rulli in acciaio, arriva una bolletta da 253.502 euro e sono a rischio 150 posti di lavoro. Costretta a fermarsi la Burgo di Tolmezzo, alcune linee non lavoreranno fino a fine mese, a casa in 240. L'aumento dei costi dell'energia, ha dichiarato l'azienda, sono imprevedibili e consistenti. In taglio basso, sempre dalla prima pagina, insulti sessisti all'arbitro donna, 10 giornate di squalifica, è successo durante una partita di promozione. Il capocronaca di Udine apre con i due appuntamenti sportivi in città previsti per domenica, maratonina e Udinese Inter, domenica sportiva a rischio ingorghi. La prima pagina del Messaggero Veneto edizione di Pordenone apre con Pordenone legge la protesta del sindaco Ciriani all'inaugurazione, banali luoghi comuni e vecchio femminismo, ha detto il sindaco che è uscito dalla sala prima della fine della cerimonia. E poi un caso a Sacile in una scuola primaria della De Amicis in cui i bambini delle classi cantavano Bella Ciao su indicazione della maestra, scoppia la polemica da parte di alcuni genitori, la preside stronca la polemica, qui insegniamo anche l'inno di Mameli. E sul caro energia, la decisione del gestore della piscina di Aviano, docce tiepide, altrimenti chiudiamo. Medici esterni strapagati e bufera, il titolo di apertura del Gazzettino dell'edizione del Friuli, e si riferisce ai medici che si licenziano dal pubblico per poi rientrare in ospedale con contratti di libera professione e con retribuzioni che arrivano fino a 5 volte tanto. La fotonotizia invece ha questo titolo: mobbing, sempre più donne sotto accusa. Il riferimento è allo sportello di Udine, di cui abbiamo parlato nella prima parte del giornale radio, e ad un aspetto di quanto emerge: le donne sono vittime, ma spesso anche carnefici. Accanto rubano 1 milione, ma vengono derubati a loro volta, ne abbiamo parlato ieri. Maratonina, traffico ad ostacoli, firmata l'ordinanza. Sotto, muore poco dopo la festa di nozze, parliamo dello sposo, aveva 60 anni, lunedì mattina il matrimonio, lunedì notte la morte. Sotto, nell'Udinese, il club del 500 fa la differenza. L'apertura del fascicolo invece dedicato a Pordenone è: Pordenone legge lo schiaffo di Ciriani, il sindaco lascia la sala prima della fine dell'inaugurazione e la boccia, un campionario di luoghi comuni. Mozambico, il ritorno di Don Loris una settimana dopo l'attacco alla missione che si vede nella fotonotizia avvolta dal fumo. Accanto legge FVG Green, niente accordo in regione. Si tratta della legge che dovrebbe condurre la regione verso l'autonomia energetica. Sotto Nero Verdi in coppa, l'ostacolo sarà l'Imolese. Siamo arrivati così al termine di questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Anna Vitaliani. In regia, per la parte tecnica, Giampaolo Zucchi. Ha collaborato in redazione Alex Ollan. In redazione invece ha collaborato Manuel Bussani. A tutti voi grazie per averci seguito e ancora una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.